Siamo tutti in Varese, poco panico, molto panico. A Varese non ci sono Elio e le storie tese. C'è un gruppo metodico, si fa chiamare Pubblico Zero. Non odia lo straniero, ama il world. Attenzione, yeah. Perché noi in questa banda siamo tanti componenti e siamo contenti di fare quella cosa che si chiama R.A.P. Attenzione, incomincio a presentare la crew. Lui ha uno stile radicale, non gliene frega niente di nessuno. E lui dice quello che pensa, non è nessuno, ma è fa parte di tutti noi. Quindi è il grande capo. Lui si chiama Frettoloso. Dico basta e faccio un gran disastro. Lui dice mai check, non dice mai Mike. Lui è il grande, unico, ribelle. Ha il colore della mia pelle e ha il colore della tua pelle. Si chiama I, detto Y, detto Yannis, e spara la sua teoria. Qui c'è la I, bella lì, già lo sai. Ah! Viene dal suono o viene dall'ultrasuono? Sta a voi giudicarlo. Sta a voi giudicare il suo nome. Lui è 24 tassi. Oh! Testo della forza, credi in niente. Oh! Donna del sesso. C'è uno venuto da molto lontano, è uno che ci deve far presentare. Lui è pneumatico. Azza! Ma lì già sai che non è. E sono qui con la R-E-M-A. Già sai, passo Nick al mio amico che non ce ne stai. È qui con me. Lui picchia duro, picchia forte, lo chiamano Uzi. Il suo suono è questo. Uzi spara ne manca uno, ne manca uno. E parte già, non ha paura di nessuno. E lui si chiama Baba, la sua rima è un po' strana.